E inauguriamo la settimana di Job 24 dedicata alle professioni del turismo, offrendo una panoramica del settore. Quindi a volo d'angelo tocchiamo gli ambiti che in questo momento o nell'immediato futuro promettono più possibilità occupazionali e di carriera, perché no, in questo settore. Ci aiuta in questo un esperto che è Antonio Caneva, direttore di Job in Tourism. Job in Tourism che organizza TFP Summit, un forum sul turismo di cui parleremo meglio domani qui a Job 24 e che, lo anticipo, si terrà a Milano il 20 e il 21 febbraio prossimo. Allora, Antonio Caneva, il settore del turismo non attira soltanto i ragazzi. Come ci testimoniano molti ascoltatori e ascoltatrici, sono infatti tante le persone mature, diciamo così, che hanno una carriera già avviata, che pensano o vorrebbero cambiare vita aprendo per esempio un ristorante, un agriturismo, un albergo diffuso. Sicuramente è un ambito affascinante, l'Italia ha tanto da offrire. Dal suo osservatorio, che è privilegiato, cosa si sente di dire a questi ragazzi, a queste persone che vorrebbero, insomma, lavorare in questo ambito? Lei ha anticipato un aspetto della problematica assolutamente importante. L'Italia è un paese fantastico anche per quanto riguarda il lavoro nel turismo. Noi abbiamo una varietà di opzioni, abbiamo località marine, abbiamo i laghi, le montagne, città d'arte, città business, e ognuna con una propria stagionalità e con delle proprie peculiarità. Il che vuol dire che le figure richieste non sono monotematiche o monotipiche, sono richieste figure con varie esperienze che si adattino alle esigenze diverse di queste tipologie di lavoro. È giusto che ognuno segua la propria vocazione, ci mancherebbe altro, però ogni tanto anche fornire una bussola può essere utile. Di quali profili si ha più bisogno in questo momento o in prospettiva nel futuro? Veda, innanzitutto uno dei temi che conducono turismo in Italia è sicuramente la cucina. La cucina, allo stato attuale dell'arte, la cucina, chiamiamola mediterranea, è sicuramente quella trainante. Nel mondo non esiste più un albergo, un settore ristorativo dove non ci sia una cucina italiana. E questo vuol dire che chiaramente i cuochi sono delle figure molto molto richieste. Chef di partita, tra métier, eccetera, fino ad arrivare ai chef, executive chef. Il problema per quanto riguarda la cucina internazionale in rapporto ai nostri cuochi è che molto spesso non parlano la lingua inglese. Questo li pone in una posizione inferiore rispetto ai loro competitor internazionali, quali ad esempio gli austriaci, i tedeschi, gli svizzeri, che invece hanno una cultura linguistica superiore. E nelle grandi cucine, dove operano decine di persone e dove le nazionalità sono multiple, quindi diventa quasi indispensabile parlare l'inglese. Questo è già un buon consiglio che ci ha dato. Probabilmente la cosa migliore da fare per un cuoco è formarsi in un certo periodo all'estero. Assolutamente, secondo me questa è la chiave per avere del successo a livello internazionale. Si dice che, tra le altre cose, l'Italia sconta una modesta presenza di laureati nelle imprese turistiche, quindi abbiamo strutture manageriali che non sono all'altezza, a differenza di molti altri paesi d'Europa, per esempio la Spagna e la Grecia ci superano in questo. È la storia, è la nostra storia. Noi in Italia abbiamo, oltre, se parliamo di alberghi, abbiamo oltre 30.000 esercizi. Di questi soltanto poco più di 5.000 hanno una dimensione, diciamo, accettabile, che supera le 40 camere, e ancora meno sono quelli aggregati in compagnie. Quindi la cultura è sempre stata quella di figure che si sono formate dall'interno, quindi sono cresciute e l'esperienza ha fatto in modo che raggiungessero posizioni manageriali. Diciamo sta cambiando adesso questo ragionamento, nel senso che le grosse compagnie internazionali chiedono professionalizzazioni molto più spinte, dove non ci sia più soltanto la conoscenza pratica dell'attività, bensì anche una conoscenza teorica molto legata alle tecniche, alle cifre, alla capacità di gestione. Dunque, cercansi cuochi e chef, manager del turismo e poi? E poi figure professionali interessantissime attualmente, non esistevano prima, esiste una necessità adesso di persone professionalmente preparate, che sono ad esempio i revenue manager. Revenue manager è quella figura che nasce a seguito dell'inserimento dello yield management, quindi dalle compagnie aeree, e che ha visto veramente ormai questa tecnica attivata in tutti i maggiori complessi. Ci spiega meglio di che tecnica stiamo parlando? Si tratta della tecnica che definisce i prezzi da applicare applicare in un certo momento nelle strutture turistiche. Mentre una volta c'era un discorso di alta e bassa stagione, no? Grossolanamente indicata, attualmente ogni giorno il prezzo è diverso, secondo la richiesta, secondo la stagione, secondo il momento, secondo le disponibilità di camere, e questo prezzo viene indicato dal revenue manager. Molto chiaro, noi approfondiremo queste figure professionali nel corso della settimana, che avrà come filo rosso proprio le professioni del turismo. Invece domani presentiamo il TFP, cioè Turismo, Formazione e Professioni, forum che si terrà il 20 e il 21 febbraio a Milano. Noi abbiamo avuto con noi il direttore di Job in Tourism che organizza questo forum, Antonio Caneva. Segnalo un libro che può essere utile agli interessati, che è l'Almanacco dei Job in Tourism 2008, Guida al futuro, i nuovi trend dell'industria del turismo, edizioni proprio Job in Tourism. Antonio Caneva, molte grazie. Grazie molto a lei, le auguro una buona serata e buona serata agli ascoltatori.